Qual è il grado, diciamo così, di pervasività, di diffusione, di penetrazione o di tentativo di penetrazione di quella che è un'economia legata alle mafie? Questo è un po' la coda del tema che volevo affrontare prima parlando di giustizia, però possiamo parlare anche di sicurezza, perché è un dato di fatto. Certo. Allora, il tema della sicurezza è sicuramente un tema che va affrontato a livello di sistema paese. Non può essere, non è un problema del Sud, è un problema dell'intero paese. Questo è emerso anche in occasione di un'operazione molto importante che è stata commessa tra la Calabria e la Lombardia lo scorso maggio, dove sono state, certo, arrestate nel sistema italiano oltre 150 persone, ma ha coinvolto anche alcuni comuni della Brianza. Assolutamente, l'inchiesta è il crimine. Il PM che ha gestito, uno dei PM con cui ho potuto confrontarmi della Procura di Monza, ha messo in evidenza benissimo anche durante un intervento presso la provincia di Monza, che noi abbiamo questi due grossi problemi, cioè da un lato quello delle infiltrazioni che riguarda soprattutto la camorra, certo, ma il problema più grosso è il problema della pervasività che invece in realtà si è visto affrontando invece la 'ndrangheta. E il problema della pervasività è uno dei problemi più pericolosi, perché? Perché non si tratta solo di parlare di un investimento da parte della criminalità organizzata nel settore finanziario immobiliare, ma quello di, diciamo, riciclare, cioè di andarsi a occupare di alcuni settori nella fase attiva, diciamo, raccolgono con la criminalità organizzata, voglio dire, delle liquidità che poi vengono investite in attività, certo, anche lecite, voglio dire, certo, di per sé, certo, magari beh, hanno un patrimonio fondativo che non è lecito.